up here. Sì, prova. Ci siamo. Scusate, avevo dei problemi allo sgabello. Oltre a quelli dello streaming. Che tutte le volte lo sbrano sto sgabello sotto, mi batte da tutte le parti. L'hai messa la base? C'è ragazzi, la base. C'è la base. Va bene o è alta, eh? Tutte le volte è alta. Piacci te. Comunque bentornati, eh. Bentornati a tutti. Decima puntata. Decima special puntata. Special. Sei sicuro? Sì, perché. Ma con sto collo rosso. Mi sono grattato. Ah. Allora, c'è l'azzurro. Perché special? Vediamo un po' perché. 50 special. 50 special. No, perché. No, perché? Spiegamolo. Spieghiamolo, dai. È una puntata completamente. Siamo riusciti a arrivare alla decima puntata nonostante tutto. Non pensavo così tanto io sinceramente. Che poi comunque sulla scaletta continuiamo a scrivere decima e ultima. Sì, sempre. Sempre. Continuamente. Vabbè, porta fortuna ormai, no? Sì. Beh, sì, è vero, ha ragione. Tradizioni non e quindi si oggi si fa la puntata come ci pare. Esatto, quindi puntata senza scaletta. Senza scaletta. Ma perché così. Quelle altre volte ce la obbligava qualcuno. No, vabbè, comunque diciamo la scaletta classica del programma. Oggi tutta roba scelta da noi. Esatto, quindi giusto? Non ci sarà sì, diciamo che per festeggiare la decima puntata abbiamo deciso di mettere tre canzoni a testa, ovvero quelle che le prime che ci passavano per la mente, quelle che ci piacevano di più, quelle un po' diverse fra loro, quelle che insomma quelle che ci pareva, dai. Esatto. Bene. Esatto. E fa risordire me. Ah, è vero. Mazzeo la voce. Ragazzi, il nostro tecnico biondo finalmente ci prova. Farà ci lo prova. Speaker biondo per un po'. Ci prova, e poi tra l'altro è il primo che parte, quindi sì, se ti vuoi appropinquare al microfono, sì, sì. Allora, la prima canzone che ho scelto è dei Blink meno 180. Gasato magari. Ciao, sono Mirko. Presentati magari. Sgonfia il petto. Sì, va bene. Posso? Vado? Vai avanti. Scritto a penna, scaletta a penna. Allora, la mia prima canzone è dei Blink 182, All the Small Things. Allora, sono un gruppo rock formatosi dal 1992 a Poway, California. La band ha prodotto in totale 6 album, 21 singoli, vendendo più di 20 milioni di dischi. E questo è All the Small Things, Blink 182. Sì, she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the light. bravo speaker. Mazzeo, devi anche disannunciare, dai. Sì, erano i Blink 182 con sì. Dai! Ho mangiato un foglio. Vabbè, che dici? Allora, ora c'è la mia canzone, una delle mie canzoni. Allora buffone, buffone, buffone, buffone. Che amiconi che posso? Siamo. Allora no, quando andiamo, sei comodo, avanti. Dimmelo, Bindi, io vado, cioè. Vai pure. Ragazzi, stasera grazie. Se fa le 9:30, eh. E la mia prima canzone è Hurricane di Bob Dylan, scritta a quattro mani con Jack Levy. Quattro mani. Dove vai? A quattro mani. Vabbè, okay. Vabbè. È la traccia di apertura di Desiree e probabilmente la più nota all'interno di questo album. La canzone venne anche stampata su un disco 45 giri divisa sulle due facciate. Smetto, eh. È un brano di protesta registrato il 30 luglio del 1975 a favore del pugile Rubin Hurricane Carter, che fu condannato ingiustamente a 3 ergastoli per triplice omicidio avvenuto a seguito di una sparatoria al Lafayette Bar nel New Jersey il 17 giugno del 1966. Fu scarcerato nell'85 quando il giudice della Corte federale Addon Lee Sorokin sentenziò che non aveva avuto un processo equo, affermando che l'accusa era basata su motivazioni puramente razziali. Il 26 febbraio dell'88 caddero definitivamente le accuse a suo carico. Dylan venne a conoscenza della storia di Carter leggendo la sua autobiografia, The 16 Round, del 1974, che Carter stesso gli aveva inviato, conscio del suo precedente impegno per i diritti civili. Un'ultima curiosità: Dylan non suona in pubblico Hurricane dal giorno in cui Rubin Carter fu scarcerato. Tre righe. Era Hurricane, Bob Dylan. Gasatissimo. Bene, anche te oggi. Esatto, sì, dopo l'altra volta ormai. Bene, adesso una mia canzone da proporre. Io ho scelto tra le tre Bryan Adams, Summer of 69. Cito! Ma Bryan Adams! Niente! Eccola! No! A questa canzone praticamente lui l'ha scritta in un'estate, appunto, in cui era un ragazzo e lui reputa essere i migliori giorni della sua vita, un po' malinconica magari. In cui parla di aver comprato la sua prima vera 6 corde, e suonata, che l'ha suonata fino a che le dita non sanguinavano, e aveva messo un gruppo con una band tra dei suoi amici, però uno se ne andò, uno Bindo, si sposò. Anche, sì. anche meno svogliato, sì, magari. No, ragazzi, scusate, siamo svogliato. Allora, e praticamente, e poi parla di che c'era una ragazza con cui lui, insomma, ha avuto una storia e hanno cercato di cerbare un ucciso del re. Piccheranno Jordi con una corda d'oro. E con questa ragazza, appunto, ha passato i giorni migliori della sua vita. E adesso che per lui, che è grande, insomma, quando è cresciuto i tempi stavano cambiando, ricorda quell'estate. Fammi indovinare, nel 69. Adams, esattamente. Ah, ecco. E Adams tra l'altro dichiarò appunto che Summer of 69 era una canzone, è una canzone senza tempo, perché parla di fare l'amore in estate. E ve la mettiamo, Bryan Adams. I got my first real six string. Io l'ho corretto, guarda, io l'ho corretto. Io l'ho corretto. Allora, ragazzi, questa era Bryan Adams con la sua Summer of 69. Adesso io ho voluto scegliere questa canzone. Ho voluto scegliere questa canzone. Perché ho volzato con il mio amico Bindo. Andremo al concerto, yes, di un certo Bruce Springsteen a Roma l'11 luglio. Yes. E io ho voluto così, diciamo, dare un antipastino, grande, un aperitivo di quello che sarà la nostra serata. Sapete che vi perdete, Cherubini compreso. Ma ricordiamo anche l'antefatto l'anno scorso. Che è successo l'anno scorso? Si è preso 4 ore d'acqua. Ecco. E il telefono, il telefono? Il telefono, il suo, ciao. Ciao. Il mio era stato in coma, poi si è risvegliato. Si è ripreso. Ha fatto due gocce. Ha fatto Bruce Springsteen, questo e altro, eh? Ovviamente. Glory Days è un singolo di Bruce Springsteen, appunto, pubblicato il 13 maggio 1985 come quinto singolo estratto dall'album Born in the USA. Niente, praticamente. Il singolo raggiunse la posizione numero 5 della classifica Billboard Hot 100. Eccovi una delle più belle versioni di Glory Days, forse la più bella performance live del Boss a Hyde Park di Londra per il concerto Rock Calling organizzato dall'Hard Rock Café. Yeah. Sting. Non so se mi funziona il microfono perché non si accende. Ma... ecco, adesso funziona. Dicevo, questo era Bruce Springsteen, Glory Days. Ci vediamo l'11 luglio, Bruce. E adesso è una canzone dei Clash. Parla tutto te, allora. Tocca a me. Police on My Back. Police on My Back è una canzone contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, scritta da Eddie Grant e inserita nell'album Baby, comeback del gruppo inglese The Equals, di cui Grant faceva parte. I Clash nel 1980 ne hanno rifatto una cover che Joe Strummer ha deciso di inserire nel loro triplo LP Sandinista, dovrebbe essere il nome del... e adesso i Clash, così a occhio. È quella dopo, scusa. La mia. Ah, è del Masa. Bene. Masa. Sì. Erano i Clash. Sì, ma Police on My Back. Il Luke è in curva. Luke, per favore, vieni qua. Ascolta. Ricordiamo la curva che è semplicemente una stanza tecnica. Vai. Vai. La mia prossima canzone è All Summer Long. Ah, bellissimo. Kid Rock. E vai. Tre curiosità di Kid Rock. Compare nella 21esima puntata di CSI New York. Quella con Orazio? Quella con Orazio. New York è quella con New York, quella Riccione. Non lo so. Quella Riccione. Yeah! Poi ha doppiato se stesso nella puntata dei Simpson. Si è doppiato. Ex marito della bella Pamela Anderson. È vero. Quella di quella non si può dire, quella lì, non si può dire io. Su Paolo, va. Sì, infatti, ci manda via su. Va bene. È il titolo di una canzone registrata da Kid Rock. È pubblicata nel 2008 come terzo singolo del suo nono album, Roll Jesus. E questo è Kid Rock, All Summer Long. Kid Rock. We'll be right back. 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Kid Rock alla Summer Long, come è scritto sulla scaletta. Ma come si legge? Chiaramente, Mazzeo si è dimenticato. Kid Rock alla Summer Long, alla. Che sembra una discoteca. Vabbè, comunque. Chiaramente ispirata a Sweet Home Alabama. Certo. Adesso la mia canzone, la mia prima canzone. Ho scelto un artista italiano. È il nostro Luciano Ligabue con Tutti Vogliono Viaggiare in Prima. È il secondo singolo estratto dall'album Fuori Come Va. Non... Sai quanta benzina spendi a viaggiare in prima? Più che altro non arrivi mai, però vabbè. Comunque questo brano è anche con questo brano partecipa e vince al Festival Bar del 2002, quando ancora lo faceva pensa te. La canzone vuole denunciare con sfacciataggine e ironia il comportamento di tutte quelle persone che pensano di aver trovato una risposta ai loro problemi in un drink, sprofondate su una poltrona in prima classe. Quelli come me si svegliano alle tre e dicono che i giorni sono corti, e poi quelli come me si svegliano a metà. È finita. Questa era Luciano Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Luciano Ligabue, che Bindi è interessato, dovrebbe, forse, voci di corridoio si rincorrono, fare un'altra volta le sette notti in arena. Magari. Perché dicono che l'arena è fermata, ma non confermata ancora. Sì, quindi sì, siamo in attesa. Se mi interessa, speriamo. Adesso andiamo a parlare di Don't Look Back in Anger, letteralmente non guardare indietro con rabbia, ma più verosimilmente non guardare al passato con rabbia. Bravo! Dai. Bravo. È una canzone della band inglese Oasis, pubblicata come quarto singolo nel 1996 dall'album di maggior successo, ovvero What the Story Morning Glory. Verrà. Come la maggior parte dei brani del gruppo, fu scritta da Noel Gallagher, che ne è anche il cantante. È questa la prima volta nella storia del gruppo inglese che Noel sostituisce il fratello Liam come voce principale. Dai, devi sta accostando al Noel a te. Bravo Patru, disturbano dalla curva come un verulto. Lo stesso Noel, parlando della canzone, ha dichiarato: Don't Look Back in Anger la componemmo davvero in un gran periodo. Ricordo che quando entrai in studio registrai e pensai, sarà un successone. Sul personaggio Sally, di cui fa riferimento nel ritornello la canzone, ha commentato: al momento non conosco nessuna Sally. Sai, era una parola che ci stava bene. Avrei potuto metterci il nome di qualsiasi ragazza. No. Che c'è scritto lì sotto? No, ma giusto due righi? Leggo male? Giusto due righi. Noel ha poi dichiarato che il personaggio Lila, singolo del 2005, è la sorella di Sally. Un certo Paul McCartney, proprio su questo brano, ha dichiarato: ci troviamo davanti ad una delle melodie più belle di tutti i tempi. La rivista musicale online New Musical Express ha stilato una classifica particolare. Qual è il ritornello più esplosivo nella storia della musica? Quello in grado di trascinarti e non mollarti più? Sono stati presi in considerazione almeno 50 candidati, con artisti da tutto il mondo. Chi ha vinto? Ovviamente gli Oasis, con Don't Look Back in Anger. Take that. Benissimo ragazzi, questa era Don't Look Back in Anger di Oasis, detta anche Ma Giusto Due Righi. Ma Giusto Due Righi. Mi raccomando ragazzi, ok, sì, si scelgono le canzoni, però Giusto Due Righi, tre righi prima sì, di parlare. Sì, no, infatti è importante perché c'è più musica, di conseguenza c'è meno tempo. È certo, solamente certo, no, scritto grosso. Tre righe. Vabbè. Ti chiamavano Permaflex, permaloso così. Benissimo, adesso parliamo di Live is Life, che è una canzone famosissima registrata nel 1984 dalla pop rock band degli Opus, gruppo australiano, scusate, austriaco. È stato un gran singolo di successo ed è stata la cover di molti artisti nel corso degli anni. La canzone è oltretutto stata spesso colonna sonora di manifestazioni sportive. La più celebre risale al 19 aprile del 1989, durante la fase di riscaldamento prima della semifinale di Coppa UEFA, partita di ritorno fra Bayern Monaco ed il Napoli. Un certo Diego Armando Maradona ha palleggiato sulle note della canzone durante la fase di riscaldamento prepartita, diventando un classico tra gli appassionati di calcio. Opus, Live is Life. Yeah. Opus, Life is Life. Sì. E adesso la canzone del Masa. L'ultima. L'ultima. L'ultima del biondo. Prego. Ho scelto i Red Hot Chili Peppers. Californication. My Rosina. Sì. Sono un gruppo americano formatosi a Los Angeles nel 1983. Nella loro carriera hanno mescolato con successo vari generi di tipi di musica, tra cui soprattutto funk, rap, hard rock, heavy metal e punk rock. Hanno venduto più di 70 milioni di dischi, di cui un album famosissimo, Californication, pubblicato nel 1999, è il settimo album dei Red Hot e il loro disco di maggior successo, con 16 milioni di copie vendute. Pensate, oltre 700.000 in Italia. Dai, dai, no. Però l'ha detto bene. Pensate, sì, l'ha detto bene. Pensate, no, bravo, oltre 700.000 in Italia, dove è rimasto nella top 50 di sorrisi e canzoni. Pensate. Per 70 settimane consecutive. E questa è Californication. Renault. Grande Bioso. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barrow, while it breaks the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Red Hot con Californication, che tra l'altro, dimmi, questa qui, se ricordate bene, è stato, sì, uno dei primissimi video fatti completamente in computer, computer grafica, vero, vero, che per i tempi video, al 99 era veramente tanta roba. Tanta roba, vero, vero. E adesso la mia seconda canzone, Toxicity di System of a Down, che è tra le più famose canzoni del gruppo musicale, appunto, di System of a Down, estratta dall'omonimo album dell'8 marzo del 2002. Questa è una canzone, sinceramente, personalmente parlo, è una delle mie canzoni preferite. E inoltre, anche perché, insomma, devo dire, io ci sono un po' cresciuto con i System. Va un po' fuori dalle regole del nostro programma. Col Master System. Col Master System. Va un po' fuori dalle regole. Comunque sia, loro fanno più new metal invece che rock. Però lo voglio mettere, va perché mi piace qua, veramente tanto. Bellissima. System of a Down, Toxicity. Bella cattiva, eh? Allora, adesso una canzone mia che è All These Things That I've Done. Ah, basta questi durighi. Che è una canzone composta dai Killers. Ci vediamo settimana prossima. Ciao, presenti... ragazzi, ciao. Allora, ora basta. È presente nell'album di debutto Hot Fuzz ed è stata scritta dal cantante Brandon Flowers. Il singolo è stato nominato ad un Grammy Award come miglior performance rock di un duo o di un gruppo. Inizialmente è stata pubblicata solamente nel Regno Unito il 30 agosto del 2004 in versione CD e singolo vinile da 7 pollici. Nel resto d'Europa, in Australia e Nuova Zelanda, l'uscita è stata ritardata di circa un anno. Anche per All These Things, come già per Mr. Brightside, esistono due video che seguono le diverse tempistiche di uscita del singolo. La versione inglese è stata girata in gran parte a Brick Lane, famosa via di Londra, e durante il concerto che la band ha tenuto a London Astoria l'8 luglio del 2004. La versione americana è stata invece girata da Antonio Corbin. Particolarità di questo video, oltre ad avere la pellicola in bianco e nero, è che la storia è raccontata seguendo un ordine non preciso. La band si è completamente fidata del regista, che pare che neanche loro siano riusciti a capirne il senso. Can't hold on. I Killers con All the Things That I Have Done. Bravo, adesso, Pat. Grazie. E adesso la mia terza ed ultima canzone. La canzone è Doom and Gloom di Rolling Stones. Canzone estratta dall'album Grrr. Che sei citato? No, si chiama così l'album. Ah, si chiama Grrr. Si chiama Grrr. G-R-R-R-R. Che fantasia, Comunque, Grrr è un greatest hits dei Rolling Stones. È un greatest hits dei Rolling Stones. Pensavo degli Aristogatti. Inciso per festeggiare i 50 anni. No, è un cartone animato. Va bene, dai. Comunque, inciso per festeggiare i 50 anni. Grazie anche per questa puntata, per non avermi interrotto. Grazie di nuovo, prego, amici. Prego. Grazie. Comunque, è un disco dove è fatto per festeggiare i 50 anni di carriera. Quindi, pensa te cosa c'è dentro il mondo. Fantastici. Doom and Gloom, insieme a One More Shot, sono i due brani inediti che si trovano all'interno di questa raccolta pubblicata nel novembre del 2012, quindi qualche mese fa. I Rolling Stones, Doom and Gloom. Benissimo ragazzi, questi erano i Rolling Stones con Doom and Gloom, uno dei nuovi singoli usciti proprio quest'inverno, quest'ultimo inverno. Adesso mi sono lasciato andare al trash e vi propongo la mia ultima canzone, che è Surfing Bird, il primo album della rock and roll band The Trashmen, pubblicato nel 1964. L'album è composto da 16 brani che sono caratterizzati da un genere surf rock con parti di garage rock. Il brano più noto è appunto Surfing Bird, dal quale prende l'album il nome. E è stato anche inserito in una puntata del cartone animato dei Griffin. Fantastico. No, fermi, sono riuscito a fare una puntata di 15 minuti con una canzone e basta. Fantastico. Brano eccezionale. Surfing Bird. Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Ragazzi, questa è la Surfing Bird dei Trashmen. Ma com'è? Notiziona dell'ultima ora, il Patrusi è stanco. Attenzione, attenzione. Chissà perché. È stanco, ha detto che è stanco. Sbiancato. Lo ha detto più grezzo, veramente, in aretino. Bene, va bene, va bene. Allora adesso c'è l'ultima mia canzone. E anche l'ultima della puntata. Sì, esattamente, non per importanza. No, proprio l'ultima, che dopo smettiamo con il programma. Sì, l'ultima. Esatto, bene, io... Bindo, sì, dimmi. Sei licenziato anche questa settimana. Bene, allora posso dire l'ultima canzone? Sì, dai, no. L'ultima te la concediamo. Bene, io ho scelto Panama dei Van Halen e adesso vi leggerò una rivista in cui è stata recensita appunto il disco in cui c'era questa canzone e chi mi ha trovato Jarvis, infatti, su... E parla anche di Jump, appunto, che l'abbiamo messa la scorsa puntata in occasione del compleanno di uno dei membri del gruppo. E appunto dice: Jump fece incetta di premi, oltre ad essere uno degli hit più ascoltati di quell'anno. Jump potrà far storcere il naso ai puristi, un grande pezzo commerciale, sì, ma suonato da Dio, con armonie che si impregnano e non vanno più via. Panama invece... Sì, per piacere. Panama invece, roba tosta, la Van Halen. Uno dei top indiscussi di questo lavoro. Chitarra allo spasimo, batteria sferragliante, voce sguaiata e il rullante che spara allo stomaco. Un pre-chorus brillante che sfocia in una libidine hard senza pari. Uno sviluppo saltellante assolutamente grande, con Lee Roth che urlacchia e aerografa. Un solo come ai vecchi tempi e un break centrale che ci riporta agli anni dorati. Rombo di motore preso direttamente dalla Lamborghini del signor Eddie. Poi si scorre giù ad alta velocità folle verso il finale. Fantastica Panama, fantastica. Ed eccola. Van Allen, Panama. E siamo arrivati alla fine. Sì. Siamo arrivati decisamente lunghi, perché un'ora e venti quasi di diretta. Ma sì, ma tanto dietro noi non c'è nessuno. Quello è vero. Beh, poi dai, la puntata pazza, quindi sì, infatti, volendo potremmo andare avanti un'ora. Non c'è molte regole oggi. Dai. Quindi ricordiamo la nostra pagina Facebook. Ricordiamo la pagina Facebook, dove da domani potete trovare il podcast di questa puntata pazza. E inoltre tra qualche giorno, quando venerdì o sabato, potete trovare anche il contest. Quindi le 5 canzoni che noi mettiamo, che voi potete votare. Mercoledì prossimo torneremo con la nostra classica puntata. Sì, normale, via. Esatto, continueremo con la quinta puntata. No, quarta e ultima. Quarta ed ultima parte del 1968. Giusto, il contest, giusto, come appena detto, i compleanni se ci sono e così via, e via, via. E un fiasco di vino. È un fiasco di vino. Anche. Magari settimana prossima potremmo, anzi, Lucaroni potrebbe tornare non più con la sua fluente chioma. Attenzione. No, aspetta, che non la so davvero. Ho fatto un fioretto. Fioretto. Sì. La Fiorentina va in Champions League, mi fo la rapa, mi taglio i capelli. La Fiorentina è in Champions League? Per ora no. Ma domenica potrebbe. C'è l'ultima giornata. Davvero? Sì. Io non lo sapevo veramente, ragazzi, non lo sapevo. Ho fatto il fioretto. Ma va bene, sta cosa. Non sono molto convinto di questa cosa. No. Ieri sera al bar ha detto accidenta a me, e quando l'ho detto, presente io. E però alla fine ha detto Ale Viola. Ovvio. Dai ragazzi, ci sentiamo mercoledì. Sì, mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Ciao.